Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a Luca Giulio per la regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima, medesima ora. Buona settimana.